perfetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. Tangenti per truccare gli appalti, 21 arresti in Lombardia e tra loro anche un consigliere regionale della Lega. Si tratta di Fabio Rizzi, considerato il braccio destro di Maroni. In Siria la Russia respinge l'accusa di aver colpito un ospedale di Medici Senza Frontiere. La Turchia attacca con le bombe di Putin, falliscono gli accordi di Monaco. Ed è accordo intanto tra Mosca e l'Arabia Saudita per congelare la produzione di petrolio. Breve balzo del prezzo del greggio, ma via libera condizionato all'adesione dei paesi OPEC. In calo le borse. Sulle unioni civili, dopo tante discussioni, si arriva al voto sulla sostanza del provvedimento. Scontro aperto nel PD. L'europarlamentare Viotti attacca i colleghi Cattodem. Hanno rotto, dice. Maxi operazione contro il terrorismo in Belgio, smantellata una cellula jihadista e questa sera gli Eagles of the Death Metal, la band del Bataclan, torna a suonare a Parigi. Una buona giornata da Simone Spezia, bentornati a Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. I nostri contatti sono effettogiorno@radio24.it per scriverci e come sempre il 349-238-6666, tanto per gli sms quanto per i messaggi su WhatsApp. In apertura dunque parliamo di tangenti e di appalti. È in manette un fedelissimo di Roberto Maroni, che è il presidente della regione Lombardia. Il servizio. Un arresto eccellente tra le 21 persone finite in carcere questa mattina all'alba per tangenti in Lombardia nel settore odontoiatrico. Si tratta dell'operazione denominata Smile, sorriso, coordinata dalla Procura di Monza, in manette manager di aziende ospedaliere, ma anche imprenditori, personale amministrativo e politici. E tra gli indagati, a vario titolo, per associazione per delinquere, finalizzata alla corruzione, turbativa d'asta e riciclaggio, c'è il consigliere regionale lombardo della Lega, Fabio Rizzi, presidente della Commissione Sanità e Politiche Sociali in Regione Lombardia ed estensore proprio della recente riforma in materia sanitaria. Secondo le ricostruzioni investigative, un gruppo imprenditoriale avrebbe turbato in proprio favore l'aggiudicazione di una serie di appalti pubblici banditi da diverse aziende ospedaliere. Così il meccanismo spiegato dalla Procura di Monza. Perché riuscivano ad alterare la prospettazione del servizio tanto da far ricorrere al servizio tramite il pagamento delle prestazioni e anziché ricorrere a quelle convenzionate del Servizio Sanitario Nazionale. Coro di critiche, potrebbe essere sconvocata la seduta della Commissione Sanità domani. La Lega replica, se qualcuno ha veramente sbagliato pagherà. Il Movimento 5 Stelle chiede le dimissioni del governatore lombardo Maroni. Il PD dice torniamo al voto. E il presidente del Consiglio regionale della Lombardia, Raffaele Cattaneo, ammette l'arresto di Rizzi è un duro colpo per la regione. Anna Marino, Radio 24, il Sole 24 Ore. E proprio con Raffaele Cattaneo parleremo più avanti nel corso della trasmissione, il presidente del Consiglio regionale. Passiamo alla politica. È la giornata finalmente nella quale si apre la votazione vera e propria, quella di merito sulle unioni civili. Ieri è saltato l'accordo in extremis all'interno del Partito Democratico e oggi potrebbe arrivare il cosiddetto canguro. Che cos'è? È un emendamento, sia una proposta di modifica che raccoglie tutti gli altri emendamenti simili e che consente quindi, votando su uno, di votare su tutti, accelerando nella sostanza i lavori parlamentari e impedendo l'ostruzionismo. Facciamo un punto su come stanno andando le cose, con contrasti forti anche all'interno del Partito Democratico. Elisabetta Fiorito, buongiorno. Allora, subito gli aggiornamenti, perché si è conclusa senza intesa tra PD e Lega la riunione sul taglio degli emendamenti. C'erano sia i Dem, sia P, sia il Carroccio, sia Forza Italia. A questo punto in aula si andrà con il canguro e si aprirà un ampio dibattito, spiega poi il capogruppo AP Renato Schifani. Fallisce quindi il tentativo di accordo in extremis tra i vari gruppi parlamentari sullo sfoltimento degli emendamenti sulle unioni civili. Solo la Lega, ricordiamo, ne ha presentati 5.000, ma è proprio dalla Lega che il capogruppo Gianmarco Centinaio proporrà al gruppo di ritirare gli emendamenti per non dare alibi al PD. Il super canguro di Andrea Marcucci è considerato una scure troppo pesante sugli emendamenti, ma a questo punto bisognerà vedere cosa succede alle 16.30, dove il primo voto riguarda proprio questo emendamento. Ieri il PD non è riuscito a trovare l'accordo al suo interno, i Cattodem non vogliono il super canguro, scusate, che taglierebbe anche le loro modifiche, e insistono a voler sostituire l'adozione del figlio del partner con un affido rinforzato. Il resto del gruppo invece vuole mantenere l'adozione. I toni all'interno del partito del Premier sono molto forti. Daniele Viotti, europarlamentare Dem, sbotta su Twitter accusando i senatori cattolici di aver rotto le scatole. Ma diciamo, Simone, che non usa termini così eufemistici. A te. E grazie Elisabetta Fiorito, e tra poco andremo a sentire uno di questi senatori catto dem per capire che cosa hanno da dire e che cosa hanno da rispondere a tutto questo. Prima di passare agli altri argomenti, a partire dall'estero, a tutte le vicende della Siria e poi alle indagini che riguardano la morte del ricercatore italiano Giulio Regeni, ci occupiamo di una vicenda di cronaca che arriva dal torinese. La vicenda di un insegnante scomparsa da alcuni giorni, un suo studente è accusato di averle sottratto quasi 200.000 euro. E stanno proseguendo le ricerche di questa donna. Filomena Greco, buongiorno. Sì, buongiorno Simone. Effettivamente la scomparsa della professoressa di Castellamonte resta un caso apertissimo, ma due sono gli elementi significativi di oggi. Il primo è il fatto che Gabriele De Filippi, ex studente di Gloria Rosbock, 22 anni, indagato, come dicevi tu, per truffa ai danni della donna per la storia dei 187.000 euro che lei gli avrebbe consegnato, che gli ha consegnato nel 2014, si trova in questi minuti nella caserma dei Carabinieri di Torino, in particolare del nucleo investigativo che per conto della Procura di Ivrea sta conducendo le indagini sulla scomparsa della donna più di un mese fa, il 13 gennaio. Fino a pochi minuti fa abbiamo verificato e l'interrogatorio era ancora in corso. Il ragazzo si è presentato in caserma intorno alle 10 insieme a sua madre, convocata insieme a lui dai carabinieri nei giorni scorsi. Sono stati accompagnati dal loro avvocato, al momento sono sentiti come testimoni informati dei fatti. Gli inquirenti stanno ricostruendo e verificando i movimenti del ragazzo il giorno della scomparsa della donna, che De Filippi aveva dichiarato di non aver più visto proprio dal 2014. La professoressa di Castellamonte aveva deciso di denunciare a dicembre scorso la truffa, aveva cercato il ragazzo, aveva poi parlato con sua madre e aveva deciso alla fine di andare avanti con la sua azione legale. Da un lato dunque c'è l'inchiesta per truffa nella quale è indagato il giovane De Filippi, dall'altro invece il fascicolo della Procura di Ivrea aperto contro ignoti per l'ipotesi ben più grave di omicidio. Il secondo fatto riguarda invece le ricerche della donna, vanno avanti da settimane. Questa mattina si sono concentrate in frazione Sant'Anna nei boschi di Castellamonte, in particolare i vigili del fuoco e i carabinieri di Ivrea stanno setacciando la zona intorno alla diga sul torrente Piova. Un'attività programmata, dicono gli inquirenti, ripetono gli inquirenti da questa mattina, che rientra nel piano di ricerca della donna e che non è collegata in alcun modo alla convocazione in caserma del ragazzo, ma vedremo gli sviluppi nel corso della giornata. Ti ringrazio, grazie a Filomena Greco, e se ci saranno aggiornamenti ovviamente ti richiameremo in diretta e potrai richiederci la linea. Veniamo alle vicende che riguardano la Siria per un punto sulla giornata di oggi. Attacchi inaccettabili che devono cessare immediatamente e che potrebbero costituire crimini di guerra. La condanna, all'ultima ad arrivare in ordine di tempo, è della Francia per bocca del ministro degli esteri, dopo quanto accaduto in Siria, dove nei bombardamenti su strutture sanitarie e scuole hanno perso la vita almeno 50 persone. Tra gli ospedali presi di mira, anche uno gestito da Medici Senza Frontiere, l'episodio più grave. I testimoni sul posto raccontano di feriti scaraventati giù dai letti con le flebo ancora attaccate, un inferno di macchinari danneggiati, sale operatorie sventrate. Il segno evidente che si è trattato di un'azione deliberata, denunciano da più parti, puntando il dito contro Mosca ed il regime di Assad. Se i bombardamenti russi continuano in questo modo, gli accordi di Monaco sono destinati a fallire, dice il ministro degli esteri turco. Il Cremlino però respinge ogni accusa, mentre il presidente siriano frena sulle possibilità di un cessate il fuoco. E intanto l'Osservatorio Nazionale per i Diritti Umani denuncia che nelle ultime ore almeno due bambini e una donna sono stati uccisi da bombardamenti turchi. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E molto abbiamo parlato nei mesi scorsi di quanto l'ISIS si sia accanito non solamente sulle persone ma anche sui beni culturali. Ebbene, oggi viene presentata a Roma un'iniziativa, l'iniziativa che riguarda i cosiddetti caschi blu della cultura. Alessandra Schepisi ha seguito la presentazione per noi. Alessandra, buongiorno. Sì, buongiorno. Una nazione viva quando è viva la sua cultura, questo è lo slogan dei caschi blu della cultura, lo spirito della loro missione Unite for Heritage, una task force internazionale sotto l'egida dell'UNESCO che da oggi, come hai detto tu, si occuperà della salvaguardia del patrimonio artistico e culturale in paesi in situazioni di crisi. È stata presentata l'iniziativa poco fa qui alle Terme di Diocleziano da ben quattro ministri italiani della cultura francese. Franceschini dell'istruzione Giannini, degli esteri Gentiloni e della difesa Pinotti, perché l'idea è stata promossa dall'Italia, approvata poi da 53 paesi, e la task force composta da almeno 30 carabinieri specializzati e altri 30 tra storici dell'arte, studiosi e restauratori verrà formata a Torino. Non entrerà in azione sui fronti di guerra poiché la gestione dei conflitti non rientra nei suoi compiti, per esempio i caschi blu non verrebbero schierati per difendere Palmira dalla distruzione dell'ISIS, ma interverranno su specifica richiesta dell'ONU in situazioni di gravi crisi civili come terremoti, inondazioni, disastri naturali, oppure anche per verificare i danni legati al conflitto, ma solo dopo la sua conclusione o in seguito al ritiro delle truppe, insomma quando la polvere del conflitto si sarà ormai posata. E da Roma è tutto. Grazie Alessandra Scapisi per questo aggiornamento. Le cronache e le indagini sulla morte di Giulio Regeni. Spuntano nuove inquietanti ipotesi investigative nelle indagini sulla morte di Giulio Regeni. Nonostante le smentite delle autorità del Cairo, la pista più accreditata resta quella che porta ad apparati legati ai servizi di sicurezza egiziani, ma gli inquirenti non escludono che a volere la sua morte possano essere stati quegli stessi sindacati indipendenti, oggetto delle sue ricerche, che potrebbero averlo scambiato per una spia. Scavando nel suo passato si è poi scoperto che quando viveva a Londra Regeni aveva lavorato per un'azienda di intelligence fondata da un ex funzionario statunitense coinvolto nello scandalo Watergate. Altra ipotesi su cui si sta ragionando è che possa essere stato uno dei docenti universitari a cui il giovane periodicamente inviava gli aggiornamenti delle sue ricerche a vendere a qualche servizio segreto informazioni delicate sugli oppositori al regime di Al-Sisi. È stato invece smentito il racconto del super testimone che aveva detto di aver visto due poliziotti in borghese prelevare Regeni il giorno della sua scomparsa. Gli orari non coincidono, il testimone aveva parlato delle 5:30 di pomeriggio, ma le indagini hanno invece accertato che 2 ore dopo Regeni aveva sentito sia la fidanzata sia il suo professore. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E alla mobilitazione per chiedere verità sulla morte del ricercatore italiano è dedicata l'analisi del martedì di Daniele Biacchessi. Sulla morte di Giulio Regeni si seguono tante, troppe piste investigative. L'ultima sostiene che le analisi accademiche di Giulio possono essere finite in mani sbagliate e le comunicazioni, probabilmente intercettate dagli apparati dello Stato egiziano, sarebbero poi state scambiate come informative di intelligence. Al momento manca l'elemento certo che, al di là delle dichiarazioni ufficiali, potrebbe rappresentare la vera grande svolta delle indagini. Giorgio Regeni era comunque un cittadino italiano che raccoglieva informazioni sulla situazione sociale in Egitto. Nelle sue ultime parole, contenute in una email, Giorgio descriveva un malcontento diffuso tra i lavoratori, diceva, ma che fino ad oggi stentava a prendere forme in iniziative concrete. Regeni è stato comunque torturato, ucciso da qualcuno che certamente non aveva il piacere che le sue ricerche diventassero pubbliche. Ed è per questo che in queste ore decine di migliaia di persone, attraverso petizioni e manifestazioni, chiedono al governo e alle nostre istituzioni un atto di coraggio, il coraggio della politica che ha il dovere della verità. Ci spostiamo in Belgio, dove è scattata una nuova operazione antiterrorismo. Sono 10 le persone arrestate questa mattina a Bruxelles in una serie di perquisizioni. Sotto indagine una presunta rete di reclutamento in contatto con l'ISIS, che secondo gli inquirenti avrebbe permesso a molte persone di trasferirsi in Siria per andare a ingrossare le fila del califfato. 9 le perquisizioni eseguite in più quartieri della capitale belga, a Molenbeek-Saint-Jean, spesso al centro di altre retate, ma anche a Kokelberg, Schaarbeek ed Etterbeek. Sequestrati materiale informatico e telefoni cellulari. La polizia federale belga, che ha agito su mandato di un giudice di Liegi, ha precisato che gli arresti non sono legati agli attentati di Parigi. I 10 fermati sono stati portati a Liegi per essere interrogati dalla divisione antiterrorismo della polizia giudiziaria. In giornata la decisione sulla loro detenzione è preventiva, ma il riserbo sulle indagini rimane massimo. Il Belgio cerca così di stringere le maglie intorno a quelli che operano come talent scout di futuri foreign fighters. Solo ieri è iniziato a Bruxelles un processo a 31 sospetti jihadisti e ai loro reclutatori. Tra loro anche il marocchino Khalid Zerkani, già in carcere. Era a capo di una rete che avrebbe aiutato Abdelrahim Abaoud, una delle menti degli attentati di Parigi, ad andare in Siria. Maura Bertanzon, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Bruxelles. E proprio questa sera a Parigi tornano sul palco gli Eagles of the Death Metal, il gruppo che era sul palco del Bataclan, il locale dove venne compiuta la strage più grave durante gli attentati di Parigi. Non sarà un concerto come gli altri, quello di questa sera all'Olympia di Parigi. Tre mesi dopo gli attentati tornano sul palco gli Eagles of Death Metal, il gruppo che suonava quella sera al Bataclan. Il frontman Jesse Hughes nella prima intervista cerca di fare il rocker. Mais je promets à ceux qui viendront, vous allez vi prometto che lascerete fuori tutta quella merda che vi verrà duro così, che uscirete col culo e le tette che vi ballano ancora. Ma poi, raccontando la sua esperienza a Itélé, scoppia in lacrime spiegando com'è cambiata la sua vita. Non posso controllarlo, non so da dove arriva. Non ho incubi, ma quando sono sveglio vedo cose peggiori di incubi. Credo che parlarne mi possa aiutare, invece no. Vorrei solo che quelle cose se ne andassero via. E piangendo spiega la sua opinione sul possesso delle armi. Penso che tutti prima o poi debbano avere un'arma. Ho visto morire gente che forse avrebbe potuto vivere. E per questo continua a non darsi pace. Marta Cagnola, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ci fermiamo, andiamo a sentire cosa succede sulle strade. Nella seconda parte della trasmissione parleremo del petrolio, perché è stato raggiunto un accordo importante questa mattina tra Russia ed Arabia Saudita, e vedremo quant'è effettivamente importante, perché al momento l'impatto sul prezzo del greggio non si vede un granché. Abbiamo i dati dell'INPS sull'andamento dei contratti e poi torneremo ad occuparci di unioni civili. Sentiremo uno dei senatori cosiddetti cattodem, i cattolici del Partito Democratico, che oggi hanno subito un attacco piuttosto pesante da un europarlamentare del PD, Viotti, il quale gli ha detto testualmente su Twitter, e chiedo scusa se ci sono bambini in ascolto, avete rotto il cazzo, traffico a Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. I nostri titoli, le tangenti per truccare gli appalti, ci sono stati 21 arresti in Lombardia e tra loro anche un consigliere regionale della Lega e anche presidente della Commissione Sanità, si tratta di Fabio Rizzi, che è considerato il braccio destro di Roberto Maroni, che è il presidente della regione. In Siria la Russia respinge l'accusa di aver colpito l'ospedale di Medici Senza Frontiere, la Turchia intanto attacca, con le bombe di Mosca falliscono gli accordi di Monaco. Intanto la stessa Russia arriva ad un accordo con l'Arabia Saudita per congelare la produzione di petrolio, breve balzo del greggio che poi ritraccia via libera condizionata all'adesione degli altri paesi OPEC. Le unioni civili, dopo tante discussioni, si arriva al voto sulla sostanza del provvedimento, lo scontro è aperto nel PD. Infine, una notizia appena battuta dalle agenzie, sono dichiarazioni del presidente della regione toscana Enrico Rossi sui casi di meningite, ve ne abbiamo parlato, che ci sono stati nella regione. Ebbene, vaccineremo 1,5 milioni di toscani, fa sapere Rossi. Veniamo dunque al petrolio, all'accordo raggiunto questa mattina, nel quale i due attori principali erano Russia e Arabia Saudita, ma non ci sono solamente loro, che ha avuto un effetto quantomeno temporaneo sul prezzo del greggio, e ne vogliamo parlare con Sissi Bellomo del Sole 24 Ore. Sissi, buongiorno e benvenuta. Sì, buongiorno. Dopo tante settimane, mesi di voci che si rincorrevano su un possibile accordo per tagliare la produzione congiuntamente tra OPEC e produttori non OPEC, Russia in primis, è arrivato finalmente un qualcosa, un accordo vero, ufficiale, ma che purtroppo, come ricordavi, non ha ancora un valore molto forte per invertire le sorti del mercato. In un incontro a porte chiuse a Doha, nella capitale del Qatar, si sono visti i ministri del petrolio di Arabia Saudita, Russia, Venezuela e Qatar stesso. Hanno deciso e hanno annunciato in una conferenza stampa che hanno l'intenzione di congelare la produzione sui livelli di gennaio, quindi livelli altissimi, livelli comunque da primato. Il mercato, lo ricordiamo, è ancora in eccesso di offerta per qualcosa come 2 milioni di barili al giorno. Questo accordo però è condizionato all'adesione, come ricordavi, di altri produttori OPEC. Il pensiero di chiunque è andato subito all'Iran, e l'Iran ha già fatto sapere: sì, ci sto, però prima dovete farmi recuperare i livelli produttivi che avevo prima delle sanzioni, come dire no, non ci sto affatto, non lo faccio subito. Quindi questo toglie veramente molto peso all'accordo. Questo è appunto il punto generale. Quali sono le prospettive a termine un po' più medio, Sissi, secondo te? Intendo per medio in questo caso non il medio termine economico classico, ossia diciamo i 3, 4, 5 anni, ma intendo nell'arco dei prossimi mesi. Ma molti analisti stanno cominciando a prevedere che il mercato del petrolio cominci a riequilibrarsi nella seconda metà di quest'anno. Parecchie stime sostengono che il prezzo del petrolio potrebbe addirittura raddoppiare a breve rispetto ai livelli attuali. Ricordiamo però che i livelli attuali sono bassissimi, sono inferiori a $30 al barile spesso, quindi si tratterebbe di un petrolio a 60 o giù di lì, che è molto poco rispetto ai livelli a cui eravamo abituati qualche anno fa, di 100 e più. Sta cambiando qualcosa, ci sono state reazioni molto pesanti da parte dei produttori, delle compagnie petrolifere a questo crollo infinito dei prezzi. Hanno tagliato moltissimi investimenti, circa 400 miliardi di dollari di investimenti nel settore petrolifero, si stima che siano stati cancellati o comunque rinviati sine die. Questo avrà un risultato, sicuramente la produzione smetterà di crescere ai ritmi di prima, quella non OPEC ha già smesso di crescere, sta diminuendo e la domanda nel frattempo, quantomeno nei paesi emergenti, nei paesi dove c'è ancora uno sviluppo economico, continuerà invece a crescere, per cui prima o poi i nodi verranno al pettine. È vero che finora si sono accumulate delle scorte enormi, quindi non basta che domanda e offerta si riallineino, ma bisogna anche smaltire tutte queste scorte che abbiamo accumulato negli ultimi mesi. Sarà un processo lungo, è possibile che il petrolio torni a correre davvero come prezzi, ma rivedere $100 al barile è un traguardo molto molto lontano. Grazie a Sissi Bellomo del Sole 24 Ore, ovviamente su questi temi trovate sempre ampi approfondimenti sul nostro quotidiano. Giampiero Della Zuanna, senatore del Partito Democratico, buongiorno, benvenuto. Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. Annoverabile, mi sembra di aver capito, tra i cosiddetti cattodem. Le piace questo termine? I termini li costruiscono i giornalisti, poi è impossibile cambiarli, ma va bene così. Dai. Va bene così. Sia cattolico che democratico. Benissimo. Senta una cosa. Allora, oggi mi sembra di aver capito che non ci sia il minimo accordo all'interno del Partito Democratico e potrebbe arrivare questo famoso canguro. Lo ripetiamo per gli ascoltatori che non lo sanno, che ne sentono parlare continuamente. È un emendamento che raccoglie tutte le altre proposte di modifica o le altre proposte di modifica dello stesso genere per di fatto saltare un po' di ostruzionismo oppure la presentazione di una raffica di emendamenti per saltare la votazione su questi emendamenti. Come la prendete questa cosa? Ma intanto bisogna ricordare a tutti che l'emendamento cosiddetto canguro scritto da Marcucci, che è un nostro senatore, è stato scritto per contrastare non i cattodem, diciamo così, ma per contrastare un'attività ostruzionistica messa in campo dalla Lega. La Lega ha presentato 5.000 emendamenti e voleva dire che ci dovevamo stare 6 mesi a discutere questa legge. Quindi è evidente che davanti a un'attività ostruzionistica non si può fare altro che ricorrere a strumenti parlamentari di questo genere. Sì. Dopodiché bisogna vedere adesso, intanto mancano ancora qualche ora e io non dispero che la Lega capisca che in realtà su questo che la legge è conveniente di tutti, specialmente del paese, che la legge venga discussa nel merito, sì, non che venga tutto bloccato con un unico voto fatto all'inizio, tutto sì, o buona parte delle cose venga sì, bloccata. Mi sembra, guardi la Zuanna, mi sembra a leggere le dichiarazioni del capo dei senatori della Lega Gianmarco Centinaio che insomma sia un po' difficile, testuale, scrivetelo pure, per me la parola del PD vale quanto un peto, testuali parole di Centinaio in merito alla possibilità che loro potessero ritirare questi 4.500 emendamenti a fronte del ritiro del cosiddetto canguro sostanzialmente. Siamo nell'ambito come dire, della tattica parlamentare, quindi alla fin fine mi sembra di capire, la Zuanna, che per voi cattolici del PD alla fine il canguro potrebbe andar bene o no? Questo canguro blocca un nostro emendamento molto importante, che è l'emendamento che propone di sostituire la cosiddetta stepchild adoption, cioè l'adozione che è una cosa che apre praticamente Lo diciamo anche questo, perché qua ci sono sempre termini: è l'adozione del figlio del partner, cioè la possibilità di adottare. Benissimo. Ecco, questa cosa qui noi proponevamo di sostituirla con uno strumento che si chiama l'affido rafforzato, che dava tutte le garanzie al bambino, senza però scrivere sulla carta d'identità che il bambino ha due papà e due mamme, insomma, cosa che a noi sembra una cosa fondamentale. Cosa faremo rispetto al canguro? Vediamo un attimo, perché adesso il canguro, ammesso che arrivi in aula, bisogna vedere se per esempio ci sarà la possibilità di votarlo per parti separate, quindi votare in modo distinto sulle parti che coinvolgono l'adozione o la non adozione, perché noi siamo favorevoli alla legge ma non siamo favorevoli alla parte sull'adozione. Sì. Quindi che i lavori parlamentari su questa cosa sono fortemente in corso, quindi è anche difficile riuscire a mettere un punto. Me la spiega, vorrei sapere due cose per chiudere con lei, sì, abbastanza brevemente. La prima, c'è stata una forte insistenza, in parte anche da parte vostra, sul tema dei voti segreti, no? Su alcuni temi, come per esempio appunto l'adozione del figlio del partner, ci vuole il voto segreto. C'è una cosa che io qua non ho capito. Nel momento nel quale siete fieri, giustamente anche dal vostro punto di vista, delle vostre posizioni in merito a questo tema, perché non andare invece di voto palese? Vabbè, intanto io mi auguro che si possa votare su questi temi, cioè nel senso che quello che ora, se viene votato nella sua interezza l'emendamento Marcucci, non è possibile votare in modo distinto sulle unioni civili, su cui siamo tutti d'accordo, e sulle adozioni. Sì. Quindi e lì non viene fatto il voto segreto, sì, su questo, perché questa cosa qui almeno non credo che Grasso lo possa accedere dopo che non ha dato il voto segreto su altre cose. Noi abbiamo detto fin dall'inizio che non chiederemo il voto segreto, proprio perché noi abbiamo detto, abbiamo avviso aperto, abbiamo detto la nostra opinione sulla cosa e abbiamo proposto anche il modo, sì, per riuscire a parlare di queste cose, a votarle per vedere, sì, per far sì che il Parlamento si possa esprimere. Ecco, però non chiederemo il voto segreto. Non chiederete il voto segreto. No, e questo è un punto. Infine, una risposta. Chiedo ancora scusa perché se ci fossero bambini in ascolto, c'è Viotti, europarlamentare del Partito Democratico, che è un omosessuale dichiarato, lo sa, eccetera. Stamattina ha scritto: i cattodem hanno rotto il cazzo. Chiedo scusa ancora. Ha una risposta? Diciamo che questa espressione si commenta da sola. Solo così. Certo. Grazie Giampiero Della Zuanna, senatore del Partito Democratico. Sì. Tra le file dei cattolici, noi prima di andare a sentire cosa succede in borsa, abbiamo il servizio sui dati dell'anno dell'INPS sui contratti. Sentiamo. La corsa agli incentivi c'è stata e ha portato in dote un buon numero di contratti a tempo indeterminato. Nell'ultimo mese dell'anno, si legge nell'osservatorio sul precariato INPS, le assunzioni con incentivo sono state oltre 272.000, più del doppio rispetto a novembre. Nell'intero anno le assunzioni con gli sgravi sono state poco meno di 1,5 milioni, superando le stesse attese del governo. Un buon numero di imprenditori quindi ha fatto uso dello sconto sui contributi INPS per le assunzioni e le trasformazioni a tempo indeterminato, che ha durata triennale e ha un limite annuo di 8.060 euro. In generale nel 2015 sono state registrate oltre 2,4 milioni di assunzioni a tempo indeterminato, comprese le trasformazioni di rapporti a termine e apprendisti. Le cessazioni sono state poco meno di 1.700.000, dunque il saldo è positivo e vale 764.000 posti stabili. Considerando solo le nuove assunzioni, però, circa il 40% hanno un contratto part-time. Il 2015 ha visto anche la rapida e sostanziale affermazione dei voucher destinati al pagamento delle prestazioni di lavoro accessorio del valore nominale di 10 euro. Ne sono stati venduti oltre 115 milioni, più 66% rispetto al 2014. Valeria De Rosa, Radio 24, Il Sole 24 Ore. La borsa adesso, ci ritroviamo tra un attimo e torniamo a parlare di questa operazione che ha portato a 21 arresti in Lombardia, tra cui Fabio Rizzi, che è considerato il braccio destro di Roberto Maroni, del presidente della regione. A tra poco. Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. I nostri titoli: tangenti per truccare gli appalti, 21 arresti in Lombardia, tra loro anche un consigliere regionale della Lega. Si tratta di Fabio Rizzi, ci sarebbero anche, secondo l'ipotesi della procura di Monza, finanziamenti per la campagna elettorale del 2013. In Siria la Russia respinge l'accusa di aver colpito l'ospedale di Medici Senza Frontiere. La Turchia attacca con le bombe di Mosca, falliscono gli accordi di Monaco. Contro la meningite vaccineremo 1,5 milioni di toscani, lo ha annunciato pochi istanti fa il presidente della regione toscana Enrico Rossi. Sulle unioni civili, dopo tante discussioni, si arriva finalmente al voto sulla sostanza del provvedimento. Come avete sentito, lo scontro nel PD non è ancora chiuso. La borsa. Effetto giorno. Eccoci di nuovo con Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezia, e ricominciamo partendo dalla notizia con la quale abbiamo aperto questa puntata, ossia questa inchiesta della Procura di Monza che riguarda, appunto, che colpisce anche la regione Lombardia, nella persona in particolare di Fabio Rizzi, che è presidente della Commissione di Sanità, relatore della riforma sanitaria della regione Lombardia, è considerato tra gli uomini più vicini al presidente della regione Roberto Maroni. Tra un attimo sentiremo l'intervista al presidente del Consiglio regionale Raffaele Cattaneo, che abbiamo raggiunto subito prima della trasmissione. Intanto abbiamo, per la parte più strettamente giudiziaria, il nostro Angelo Mincuzzi del Sole 24 Ore. Angelo, buongiorno e benvenuto. Buongiorno. Allora, che cosa emerge, che quadro emerge da questa inchiesta? Ma emerge un quadro che aggrava ulteriormente i quadri che sono già emersi nei mesi scorsi. Ricordiamo che questa inchiesta arriva dopo l'inchiesta che a ottobre del 2015 ha portato in carcere Mario Mantovani, ex assessore alla sanità, che ha visto indagato l'assessore Garavaglia, anche lui braccio destro di Maroni. Diciamo, l'inchiesta della Procura di Monza che ha portato in carcere, tra carcere domiciliari, 21 persone, e che riguarda l'esternalizzazione degli appalti odontoiatrici del servizio sanitario lombardo, diventa e diventerà inevitabilmente un caso politico, perché Rizzi, come si diceva prima, è il padre della riforma sanitaria lombarda che è stata approvata all'inizio di agosto dell'anno scorso e che ha un po' ridisegnato il peso e come dire, i rapporti della sanità in Lombardia. Teniamo presente che la sanità in Lombardia è la principale voce di spesa, come in tutte le regioni naturalmente. Si parla di quasi 14 miliardi di euro all'anno, una spesa pro capite intorno ai 1.270 euro per ogni abitante della Lombardia. Quindi è un dossier molto delicato che ha fatto molte vittime in passato. Ricordiamo anche l'ex governatore Formigoni, a processo, sotto processo a Milano per corruzione internazionale. E si aggiunge anche al, come dire, un quadro che coinvolge anche il governatore Maroni, che è a processo, sotto processo a Milano, l'udienza ci sarà il 3 marzo, per aver, secondo l'accusa della Procura di Milano, favorito due ex collaboratrici. Quindi l'inchiesta di oggi si inserisce in questo quadro, un quadro che rende la situazione politica della regione Lombardia abbastanza delicata. Allora, questo il punto generale, e anche di questi argomenti, appunto, noi abbiamo parlato con Raffaele Cattaneo, che è il presidente del Consiglio regionale, per capire un po' un attimo da lui innanzitutto come l'hanno presa e poi come considerano nello specifico questa vicenda di Rizzi. Beh, insomma, certamente questo è stato un fatto che abbiamo accolto con sgomento e anche con molta tristezza, un fatto che addolora, che colpisce il Consiglio regionale, in un momento in cui stavamo tutti lavorando per restituire al Consiglio regionale credibilità e dignità attraverso la qualità del nostro lavoro. Un fatto ovviamente sul quale siamo ancora tutti in attesa di avere notizie più precise, perché al momento si sa veramente ancora poco, non si sa neppure con esattezza in quale periodo sono collocati i fatti che vengono contestati a Fabio Rizzi, e ovviamente un fatto di fronte al quale le valutazioni da esprimere sono innanzitutto due. La prima è che dal Consiglio regionale deve venire un messaggio chiaro di rispetto della legalità e di condanna per ogni tipo di malaffare, e al tempo stesso però, nel rispetto della legalità, ci deve essere il principio sacrosanto della presunzione di innocenza, perché insomma tutti quelli che come me conoscono anche Fabio Rizzi hanno qualche difficoltà a immaginarselo autore di conventicole, consorterie dedite costantemente al malaffare. Detto questo, se ci saranno e saranno accertati in sede di giudizio fatti gravi, ovviamente di fronte a questi fatti non ci deve essere nessun equivoco, la condanna deve essere assoluta. Senta, si apre una questione politica che riguarda la regione, ovviamente il PD già chiede di tornare al voto, c'è l'attacco del Movimento 5 Stelle. Ma vede, le opposizioni fanno il loro mestiere, però io mi domando e domando anche agli ascoltatori, ma in questo momento che cosa serve di più alla sanità lombarda? Sanità lombarda che comunque rimane una sanità di eccellenza ed è una sanità che costa poco, molto poco rispetto alle altre sanità del paese. Dunque se fosse davvero un ricettacolo di ogni forma di corruttela e di nefandezza non si spiegherebbe come fa a essere al tempo stesso una sanità eccellente di qualità e a basso costo. Allora è vero però dall'altra parte, Cattaneo, che molti giornali stanno titolando in queste ore e in effetti è così, insomma, Rizzi è uno che è considerato molto vicino al presidente della regione, se non da alcuni addirittura il braccio destro, quindi questo è un problema politico, no? Beh, ma nessuno si vuole nascondere, io stesso ho detto quest'oggi in aula che questo episodio è un duro colpo per il Consiglio regionale, ovviamente, mi sembra una fin troppo facile constatazione, però resta il fatto politico che anche grazie al lavoro di Fabio Rizzi e degli altri che con lui hanno lavorato alla riforma, noi abbiamo votato pochi mesi fa in Consiglio regionale un testo che è stato condiviso anche con le opposizioni, ricordo che sono stati ritirati oltre 25.000 emendamenti ostruzionistici che erano stati presentati dalle opposizioni, proprio perché su alcuni temi, tra questi i controlli, abbiamo trovato delle soluzioni condivise. Oggi la riforma prevede un'agenzia dei controlli in sanità che è gestita da un consiglio nominato integralmente dalle minoranze, non dalla maggioranza che governa la regione Lombardia. Dunque c'è un'evidente corresponsabilità, come giusto che sia, nel governo della sanità e nel controllo soprattutto di quello che avviene in sanità. Ora è fin troppo facile buttarla in politica, nascondere la mano e dire Maroni si dimetta. Se Maroni si dimette, i problemi della sanità non si risolvono con la bacchetta magica, sono tutti lì. È molto più utile mettersi alla stanga e lavorare perché episodi del genere, che devono comunque essere tutti accertati, abbiamo visto quante volte all'accusa poi non è corrisposta una condanna di fronte a un tribunale, ma appunto singoli episodi che se fossero accertati evidentemente devono essere condannati. E chiederete le dimissioni di Rizzi? No, guardi, in questi casi la norma prevede già un provvedimento di sospensione quando ci sono disposizioni che limitano la libertà personale, come in questo caso. Pertanto attenderemo che la prefettura a cui compete questo compito ci trasmetta il provvedimento di sospensione e sospenderemo il consigliere Rizzi fino a che valgono le misure cautelari a suo carico. Ci sarà nel frattempo una sostituzione con il consigliere primo dei non eletti e dopodiché attendiamo che si verifichino i fatti. Io mi auguro che Fabio Rizzi possa dimostrare ovviamente la sua estraneità, me lo auguro per lui e me lo auguro per tutto il Consiglio regionale della Lombardia, ma francamente ritengo che il nostro primo dovere sia quello di continuare a governare e ad assumere i provvedimenti che servono perché le cose continuano ad andare nella direzione giusta. Il traffico, Mario Platero, ci risentiamo alla fine per i saluti.